Vendo tutto di Matteo Caccia. Ci sono cose che vendi e di cui ti dimentichi appena le hai date via. Ce ne sono altre invece che, anche se non le usi più o non le vedi lì in casa tutti i giorni, ti rimangono attaccate addosso come un cattivo odore. Queste sono le cose che voglio vendere più in fretta. Ecco perché non mi fermo e continuo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una coppia di caschi. Fin da Pavia si pensa al mare, fin da Alessandria si sente il mare. Dietro una curva improvvisamente. Oggi non è proprio una grandissima giornata, ve lo dico con molta franchezza. Capita, no? Un po' perché ti svegli storto la mattina, un po' perché succedono delle cose che ti rendono la giornata un po' più difficile e quindi hai voglia di arrivare alla fine il prima possibile. Abitualmente ci pensavo prima, quando ho tempo e la possibilità di farlo, ci sono 3 cose che faccio per cercare di raddrizzare le giornate storte. La prima, mangio un etto di coppa piacentina, proprio così, via una fetta all'altra, senza il pane. La seconda cosa che faccio invece è riguardare una partita dell'Inter, possibilmente è una partita che è finita bene e ultimamente diciamo che riesco a farlo con una certa frequenza. La terza cosa invece è lì, però ci vuole appunto un po' più di tempo per la possibilità per farlo, è che salgo in macchina, la accendo, parto e guido lungo una strada, non una strada qualunque, la strada che mi piace fare, la strada che preferisco, ed è proprio questa strada qua. Fin da Pavia si pensa al mare, fin da Alessandria si sente il mare. Dietro una curva improvvisamente. È la strada che da Milano va a Genova. Prima l'ho scritto su Facebook e la gente sembrava impazzita, diceva una strada orribile, piena di curve, di gallerie. Sarà che è per quello che invece mi piace, perché mi dà la possibilità di riflettere, di pensare un po', di cercare delle soluzioni, se ci sono bisogno delle soluzioni. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ce l'avete una strada dove magari ci passate per caso, magari invece ci andate proprio apposta, ci arrivate, magari abbassate un po' la radio oppure l'alzate, abbassate un po' il finestrino e ve la godete proprio. C'è un panorama che vi piace, ci sono delle case che vi piacciono e magari vi porta in un luogo che vi piace. Se avete voglia di raccontarmela, 800 24 00 24. Prima ne parlavo con Laura Faggin, prima che ci abbandonasse per andare a fare un simpatico weekend lontano da qui. Lei mi diceva: guarda, io amo molto il... oddio, l'ho scritto ma non riesco a leggerlo bene. Il passo della fota? Della futa, credo. Il passo della futa, e poi tutte le strade delle Dolomiti vicino alle mie parti. Perché effettivamente questa è una cosa, io la faccio in macchina, però è una cosa che immagino i motociclisti abbiano proprio. Il fatto di pigliare la moto e andare a farsi delle strade, in particolar modo le strade a cui sono affezionati. 800 24 00 24. Monica su Facebook mi scrive: tutte le strade del Medio Friuli, circondate da campi e paesi. Elisabetta, anche lei mi scrive: la strada che va da Magliano in Toscana verso Ansedonia. Spengo l'aria condizionata, abbasso i finestrini e mi faccio travolgere dall'aria mite e dal profumo di pini marittimi. E poi, in ultimo, il mare. E ancora un altro messaggio. Paolo dice: è la strada che da Siena porta ad Asciano, nell'area delle Crete Senesi. Io sono di Poggibonsi e ci vado apposta quando voglio riflettere. 800 24 00 24 per raccontarmi in diretta la strada che preferite e che volete fare quando volete rilassarvi, oppure me lo scrivete 349 238 6666. Continuiamo a parlare di strade e di guida, direi, e lo facciamo parlando dei miei caschi. Radio24.it per vederli, la loro storia. Eccola qua. I caschi da rally. Coppia di caschi in marca Sparco, modello Yes, bianchi con interno rosso e visierina. Materiale Kevlar e fibra di carbonio, peso 1 kg e 100 grammi, taglie small e large. Perfetti per chi voglia provare un'esperienza rallistica a due o per chi veda la vita di coppia come un'esperienza molto pericolosa. Valore commerciale 240 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Mi piace guidare. Guidare non mi sembra mai una perdita di tempo. Se ho cose da fare, magari preferisco prendere il treno, in modo che posso leggere o usare il computer. Altrimenti guidare è un ottimo modo per prendermi del tempo tutto per me. Mi è sempre capitato di riuscire a concentrarmi su qualcosa, non se mi fermo a pensare, ma se faccio altro. Ad esempio, se sono al cinema, magari trovo soluzioni per un lavoro che sto finendo, o se sto passando il mocio sui pavimenti mi viene in mente il regalo per mia sorella, mentre se mi ci metto lì a riflettere mi impunto e non ne esco. E poi guidare in una strada lunga, magari piena di curve, è una cosa che mi rilassa. Salgo in macchina e accendo la radio. Ecco un altro punto a favore dell'auto. È il luogo in cui ho meno distrazioni all'ascolto. In casa ci sono troppe cose in grado di catturare l'attenzione. In auto, invece, tengo gli occhi alla strada, l'orecchio alla radio. Sembra fatta apposta per ascoltare l'abitacolo della macchina. Lì dentro mi riesce meglio perfino discutere con qualcuno. Non so se è per timidezza o cosa. Il fatto però di non avere di fronte la persona a cui sto parlando, di non vedere le sue reazioni, le sue espressioni, perché ce l'ho di fianco mentre tengo gli occhi fissi alla strada, mi rende più facile far uscire i pensieri, soprattutto le parole in realtà. La strada che da Milano faccio quando sono particolarmente nervoso è proprio quella che porta a Genova. Sarà che è lunga e piena di curve, sarà che mi porta al mare, però è una strada che faccio almeno una volta al mese. La cosa che mi sembra strana delle curve è che vedi l'inizio, però non vedi la fine. E quindi non sai mai quando devi raddrizzare il volante. E poi lì su quella strada ci sono le gallerie. Eh sì, quelle mi piacciono proprio. Sembra che mi accompagnino dove devo andare. Perché quando è aperto, quando è libera, la strada non è solo la strada. Hai il cielo, i campi, le montagne tutto intorno. E tu devi proseguire perché stai guidando a 100 all'ora, però magari vorresti vedere meglio le cose intorno. Tipo il tetto di una casa, la pianta in un campo. Voglio dire, all'aperto la strada ti fa venire voglia di rallentare quasi, di fermarti, di arrivare magari un po' più tardi dove stai andando. Nella galleria invece le macchine ci scorrono fluide come l'acqua in un tubo. Il fondo della galleria sembra succhiarti verso l'uscita. E poi la strada all'aperto è prevedibile, no? In lontananza vedi già quello a cui ti stai avvicinando, lo metti a fuoco piano piano. La fine della galleria invece riserva sempre una sorpresa. Anche se non credo che alla fine di tutte le gallerie del mondo si trovino sorprese come quella che ti appare qui, sulla mia strada preferita, la Milano-Genova, quando il soffitto a semicerchio finisce e l'orizzonte ti arriva addosso, ed è blu, ed è liscio, ed è d'acqua. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Anche Giulia adorava guidare e lo faceva molto bene. Le piaceva al punto che per il primo compleanno insieme le regalai un corso di guida sportiva. Avete presente quei corsi in cui passi 3 giorni su una pista in Emilia-Romagna con istruttori che sono ex piloti? Quelli ti fanno provare tutto quello che si può provare con un'auto. Come tutti i corsi iperspecializzati, il risultato è sempre da una parte quello di imparare, ovviamente. Dall'altra, quella di tornare a casa completamente invasati. E passare giorni e giorni parlando con il gergo tecnico che capisci solo tu e qualcun altro che ha fatto il corso con te. Giulia tornò forte della sua nuova esperienza e soprattutto del migliore tempo su pista nella prova di fine corso. Il fatto di essere stata più veloce dei suoi 15 compagni di corso, 11 dei quali uomini, l'aveva convinta che doveva provarci seriamente. Io ho tentato di dissuaderla, non c'è stato niente da fare. Anche perché il suo istruttore, che chiaramente ci stava provando con lei, l'aveva fatta su che lei era nata per guidare, che era istintiva, che sentiva il motore, tutte quelle menate lì che si dicono quando ci vuoi provare con qualcuno. Insomma, in meno di 2 settimane aveva trovato l'azienda del padre di una sua amica che le faceva da sponsor e tramite il suo istruttore un'officina che le forniva l'auto, l'equipaggiamento e l'assistenza completa per una gara. Cosa le mancava? Il navigatore. Chiaramente il candidato numero uno era proprio il suo insegnante, che ovviamente non si sarebbe fatto sfuggire l'occasione di mostrare ancora una volta le sue doti di demiurgo del volante. Ma con un grande colpo di teatro le dissi che il suo navigatore sarei stato io. Che avevo uno zio che preparava macchine da rally e a suo tempo avevo pure guidato una Lancia Delta integrale e che modestamente ne sapevo qualcosa. In parte era vero e in parte no, ovviamente, però andai da mio zio e mi feci fare una specie di corso accelerato da navigatore. E dopo 1 settimana ero pronto alla partenza. Fu così che un giorno di metà giugno del 2007 mi ritrovai a Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, pronto a partire per la 43esima edizione del Rally delle Valli Ossolane. La macchina era una Renault Clio Williams. Il meccanico diceva che aveva qualche annetto ma si comportava sempre molto bene. A me solo a guardarla faceva paura, con quelle ruote così larghe e 234 cavalli sotto il cofano. Giulia invece era carica come una molla. Mi aveva obbligato a ripassare per 5 volte tutto il percorso della prova. Avevamo addosso delle tute ignifughe in cui si sudava solo a guardarle e avevano tutta l'aria di non essere mai state lavate. Stavo per infilarmi il casco quando Giulia mi fermò e tirò fuori questi due caschi, quelli che vendo oggi, nuovi, immacolati, tutti bianchi con l'interno rosso. Erano ancora incartati, intonsi, e non so come, ma appena me lo infilai, improvvisamente mi sentii nato per i rally. Salimmo in macchina, lei accese il motore e lo stomaco si chiuse in un attimo. Arrivammo sulla linea di partenza, un tizio al bordo della strada iniziò a scandire il tempo alla rovescia, con le dita di una mano. 4, 3, 2, 1. 30, sinistra 3 lunga, accenno destro 50, destra 5, 50, attenzione tornante destro, sinistra 4 meno, al palo sinistra, 4 tieni, brava, su, su, apri, apri, lasciala andare, apri, alla casa sinistra 3 più, in fila, 50, destra 3, sinistra 4 per destra più 3, 50 con avvalamento, destra 4 lunga, sinistra 3, vai, vai, vai, al ponte destra 2 meno meno, chiude 4, sinistra 2, sfiora il muro tornante, apri, apri, brava, vai, vai, vai. The world I love, the tears I've dropped to be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Ovviamente, nonostante la Clio Williams, il destra 2 e sinistra 3, questa coppia di caschi è in vendita. Il loro valore sul mercato sono 240 euro. La base resta qui. Sono 99 centesimi per le vostre strade preferite. 80024 0024. E intanto al 349-238-6666 mi scrivono. La strada di da Ampezzo a Sauris. Gallerie scavate nella roccia degli Alpini e alla fine un prosciutto fantastico. Da motociclista devo dire che la strada più bella che posso fare è quella che costeggia il lago di Como e prosegue verso la Val Chiavenna. Da lì arriva St. Moritz e poi a Livigno, bellissima strada Pesaro Gabicce, panoramica scorci incantevoli. Manu da Pesaro, giustamente Paolino Corleone è felice. 80024 0024. Sentiamo invece la strada preferita di Nicola dalla provincia di Napoli. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Nicola, come va? Molto bene direi. Ma sei in macchina? Sì, sono in macchina, però sono fermo di fronte praticamente al Golfo di Napoli, Isola di Capri, sole, tepore, bella. Gradi? Bella. Aspetta che vedo, ma saranno un 16 secondo me. Ma cosa fai di lavoro, Nicola? Questa è una cosa, come te mi sto facendo consigliare da te che cambi tutto, pure io sto cambiando tutto. Cioè? Faccio l'agente di commercio, però sto cambiando tutto, veramente sto lasciando l'azienda per la quale ho lavorato, voglio cambiare veramente tutto pure io della mia vita. Quanti anni hai, scusa Nicola? 38. Quindi, ma sei sposato, hai famiglia, oppure... No, questa è la fortuna. Ah, poi mi sono sfidanzato da poco. Quindi... E allora, Nicola, dimmi qual è la strada che preferisci. La strada che preferisco, vabbè, una delle tante fatte in questi anni, il passo della forchetta in Abruzzo, perché l'ho fatta con tutti, diciamo, i tempi possibili, con tutti i climi possibili. Quale, scusami, per chi non lo sapesse, me per primo... Il passo della forchetta praticamente è quella che costeggia Roccaraso e che poi a un certo punto scende per andare a Lama... dei peligni praticamente. Quindi cosa sono? Montagne, boschi? Sì, montagna. Ok, Nicola, guarda, starei ore con te, però ci sono altre persone, però ti faccio tanto in bocca immagino, al lupo. Immagino, grazie. Buona giornata. Ciao Nicola. Ciao. Andiamo nella provincia di Imperia, da Mauro. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Mauro. Qua. Allora, io mi sono scelto come strada preferita. Sì? Uno serrato. Allora, si parte da Sanremo. Si va da Armenitaggio, si fa la Valle Argentina fino a Triola e poi mi imbarco in uno sterrato che sale fino, c'è un colle di Garesso che è a 1801 metri, poi faccio il giro, stai attento bene. Sì, ti sto seguendo. Spettacolare, perché siamo in Costa Azzurra praticamente. Ma Mauro, scusami, la fai come? In macchina o in moto? In macchina. E quando ci vai più o meno? Ci vado regolarmente perché studio anche il paesaggio delle Alpi Marittime per la tutela dei paesi. Ma nel senso che è il tuo lavoro questo? Adesso sì, perché io sono uscito dalla musica, adesso mi riciclo avendo fatto studi anche di agrari in Francia. Uh-huh. E poi vendo questi studi a delle rivistine. Ho capito. Mauro, senti, ti ringrazio, mi segno la tua strada, che non ho capito, era molto precisa, non l'ho capita benissimo. La Valle Argentina. Perfetto. E poi ci va su. Perfetto. Grazie Mauro, buona giornata. Ciao, a presto. Andiamo a Bologna, da Egidio. Sì, Egidio. Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Io benone. Dove ti trovi? Io mi trovo in macchina. Ma sei proprio sulla tua strada preferita o no? Assolutamente no. Qual è? Io malgrado. Qual è la, dove sei e qual è la tua strada preferita? Allora, sono a Bologna, ma la mia strada preferita è quella da dove vengo, cioè la Divina Costiera Amalfitana che ti consiglio di visitare. Ah, cioè, certo, così è un po' facile, però la Costiera Amalfitana è una roba che, una, anche se non l'ha fatto, sa che è una meraviglia. Dimmi un tratto particolare, cioè quanti chilometri... Tratto che va da Castiglione a Ravello, pieno di tornanti. Quanti chilometri sono? Ma saranno una decina di chilometri scarsi, ma tutti in salita... Quindi ti danno l'opportunità di vedere la costiera da Salerno a Positano. Lo immagino. Egidio, guarda, mi segno la Costiera Amalfitana e sento anche Giovanni da Milano cosa mi racconta. Buona giornata. Ok, ciao. Ciao. A te. Pronto, Giovanni? Pronto. Ciao, eccoti qua. Sì. Sei tu. Niente, la mia strada era l'Ecco Ballabio, ma fatta in moto però. Perché quindi, l'ho fatta tante volte. Quindi parliamo di Lago di Como? Lago di Como, esatto, nel versante di Lecco, dalla città di Lecco andare su a Ballabio, certo. Barzio, quelle zone lì, però la strada vecchia, perché adesso hanno fatto la galleria che porta. Ma scusa una cosa, Giovanni, tu sei in macchina con le quattro frecce in questo momento? Sì. Perché si sente il rumore delle quattro frecce abbastanza evidente. Giovanni, ti ringrazio, prendo l'ultima telefonata, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, andiamo a Firenze, al volo, Matteo. Pronto, Matteo? Ciao, Matteo. Ciao. No, ciao. Quanto volevo farla questa scena. Un omonimo. Se, dimmi al volo, qual è la tua strada, la strada che vai a fare quando voglio di rilassarti? È una strada che faccio spessissimo, la strada in sé per sé è bruttissima, la Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno. Uh-huh. È brutta perché è piena di buche. Sì. Tremenda, però quando esci all'uscita, a un certo punto fai proprio una di curve di cui parlavi te. Sì. E mi sa che c'è la strada rialzata, non so perché, ma lì ti si apre completamente il cielo, vedi completamente il panorama e c'è sempre i colori, qualunque tipo di cielo ci sia, che ti ripaga tutta la strada fatta. Matteo, quindi, di passare lì. Grazie mille, mi segno anche questa. Ciao, buona giornata. Va. Ciao. Da amante del mare, quando ho bisogno di riflettere e rilassarmi, faccio la strada da Livorno a Rosignano Marittimo. Io ringrazio tutti, ringrazio Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, ma oggi soprattutto ringrazio Paolino Corleoni e Guido Scotti. I caschi sono visibili sul sito radio24.it, domani invece vendo una cartina dell'Europa. Voi, se proprio non volete liberarvi delle vostre cose, almeno rimettetele in ordine, che è sempre un bel modo per organizzare le priorità.